Anna e il re. Ci sono storie di donne molto speciali, la cui vita si intreccia in maniera davvero singolare e inaspettata, quasi in modo predestinato. Una di queste storie è quella di Anna Leon Owens e Margaret Landon, che vogliamo raccontarvi. Anna Leon Owens e Margaret Landon. La Gran Bretagna diede inizio all'occupazione dell'India usando come vettore la Compagnia delle Indie Orientali. Tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. In India, nel distretto di Ahmednagar, nacque nel 1831 Anna Harriet Emma Edwards. Suo padre era appunto un sottufficiale della Compagnia delle Indie Orientali, ma sui documenti ufficiali britannici c'è un buco. Non risultava il nome della nonna materna di Anna, la madre di sua madre, che probabilmente era indiana. E quantunque fosse stata regolarmente presa in moglie da un ufficiale inglese, il nonno di Anna, questo fu la causa del disonore che ricadde su tutta la sua discendenza, che risultò essere, in questo modo, di razza mista. 3 mesi prima della nascita di Anna, il padre mancò. Dopo pochi mesi la madre si risposò e seguì il nuovo marito nell'India orientale. A 10 anni la piccola fu iscritta alla scuola femminile della Bombay Educational Society, che ammetteva bambine e bambini di razza mista senza padre, e dove Anna ricevette un'educazione che però non era quella classica di una giovane britannica di buona famiglia, cosa che per Anna divenne motivo di tale vergogna, tanto che nella sua autobiografia si reinventò completamente i primi anni della sua infanzia. La sua relazione col patrigno fu conflittuale, poiché lui premeva affinché lei e la sorella si sistemassero sposando uomini molto più anziani. Dai 14 ai 17 anni viaggiò attraverso l'Egitto e il Medio Oriente con l'orientalista George Badger e sua moglie. Tuttavia, questo, come altri episodi della sua vita, potrebbe essere stato da lei inventato nella sua autobiografia per creare attorno a sé un alone di avventura che la facesse somigliare il più possibile all'eroina da lei stessa incarnata nel romanzo Anna il Re, che vogliamo presentarvi. A 18 anni si innamorò di Thomas Leon Owens, militare irlandese in India dal 1843. Si sposarono nella chiesa anglicana di Puna. Nel certificato di matrimonio Thomas unì i suoi due cognomi e così Anne Edwards divenne Anna Leon Owens. L'anno dopo nacque una bimba che sopravvisse pochi mesi. Più tardi la coppia salpò per l'Australia, dove Anna, senza perdere tempo, fondò una scuola femminile a Perth. Morì anche il secondo figlio, che era nato durante il viaggio. Anna poi diede alla luce un'altra bambina e qualche anno dopo, 24enne, il secondo figlio maschio, Louis, che sopravvisse e sarà protagonista del romanzo insieme a lei. Dopo l'Australia fu la volta della Malesia, dove Thomas Leon Owens trovò lavoro, ma anche la sua fine, lasciando la moglie appena 28enne, vedova, povera e con 2 figli piccoli, senza nessun mezzo di sostentamento. Una storia triste e abbastanza comune, e anche di vecchia data, se pensiamo che accade lo stesso a Christine de Pizan 6 secoli prima, tanto per citarne solo una. Ma Anna era una donna audace, coraggiosa e non si perdette d'animo. Tornò a Singapore, dove si creò una nuova identità perfettamente britannica e riprese a insegnare, questa volta ai figli degli ufficiali. L'insegnamento non risolse i suoi problemi economici, ma le permise di crearsi una certa reputazione come educatrice, grazie alla quale le venne offerto a 31 anni di insegnare alle 39 tra mogli e concubine e agli 82 figli del re del Siam, Rama IV, conosciuto come Mongkut. Anna accettò, mandò la figlia a scuola in Inghilterra e partì con il figlio Louis per il Siam. All'epoca un paese incredibilmente affascinante, uno dei pochi asiatici non intaccati dalla occidentalizzazione. Il regno del Siam, l'attuale Thailandia, era ancora rigidamente fiero delle sue tradizioni, nonostante il re avesse fatto chiamare Anna a corte, con l'intento di offrire ai suoi figli e alle sue mogli la possibilità di comprendere i cambiamenti storici e sociologici in arrivo grazie allo studio della lingua inglese. Anna lasciò testimonianza degli anni alla corte di Mongkut nelle sue memorie intitolate The English Governess at the Siamese Court, la governante inglese alla corte siamese. Raymond Coote, prima dell'incoronazione, era stato per 27 anni monaco buddista e poi abate. Tuttavia, fu il primo monarca siamese a sentire l'esigenza di modernizzare il paese, desiderando dare alla sua numerosa famiglia una moderna educazione occidentale. Anna rispettò la volontà del re di non tentare di cristianizzare la sua classe, ma introdusse alla corte il rivoluzionario romanzo La capanna dello zio Tom, la cui lettura influirà sull'abolizione della schiavitù in Siam ad opera del figlio e successore del re. Anna Leon Owens prestò servizio a corte fino al 1867, prima come insegnante e poi come assistente linguistica del re. Quando Moncourt contrasse la malaria e dopo poche settimane lasciò il corpo, il trono passò a suo figlio Chulalongkorn, alunno di Anna, che divenne sovrano col nome di Rama V. Quando le venne comunicato che Moncourt era trapassato e che il figlio quindicenne Chulalongkorn era salito al trono, Anna si trovava in Inghilterra per un periodo di riposo. Tuttavia, non fu invitata a riprendere il suo incarico. Chulalongkorn apportò varie riforme anche al protocollo, tra cui l'abolizione della pratica di prostrazione davanti al re, di cui Anna fu ispiratrice, grazie agli insegnamenti che gli aveva trasmesso come insegnante. Come pure altre riforme commerciali e legislative per promuovere lo sviluppo del Siam. Il suo 38° compleanno vide Anna a New York, dove aveva aperto una scuola per ragazze e iniziato a collaborare con un giornale di Boston, scrivendo storie di viaggi tra cui The Favorite of the Harem, la favorita dell'harem, che insieme alla sua autobiografia confluirà, come vedremo, nel romanzo Anna e il re, scritto da Margaret Landon. Ma non anticipiamo. Secondo il suo racconto, la permanenza a corte non fu molto felice. Difficile per Anna accettare la realtà dell'harem e la schiavitù sessuale di mogli e concubine. Inoltre, sebbene la sua posizione alla corte del re comportasse grande rispetto e persino una certa influenza politica, non venne mai accettata e invitata nella cerchia sociale dei mercanti e commercianti britannici della zona. Il libro The English Governess at the Siamese Court le fece guadagnare subito una certa notorietà, incoraggiandola a proseguire nella scrittura. Ma la fama le portò anche critiche e accuse di inesattezze da parte degli storici. Ci fu anche chi sostenne che la descrizione del re Moncourt come un crudele tiranno fosse ingiusta e non coerente con la sua vocazione buddista e con la formazione religiosa che aveva ricevuto prima dell'incoronazione. Anna Leon Owens fu anticipatrice di alcune idee femministe, credette nell'uguaglianza dei sessi e nei suoi scritti criticò aspramente e chiaramente l'impostazione patriarcale che prevedeva la sottomissione delle donne siamesi, comprese quelle prigioniere nell'harem reale. Non omise di scrivere che Raymond Coote, nonostante fosse un sovrano lungimirante, preservò usanze come la prostrazione della donna al suo cospetto e la degradante schiavitù sessuale. Nel libro del 1873, Romance of the Harem, ne raccontò episodi davvero crudi, incluso quello della tortura ed esecuzione della concubina Tuptim e del suo amante, fatto che tuttavia venne smentito da una pronipote del re, la quale dichiarò che, essendo stato Moncourt monaco buddista per 27 anni prima di diventare re, non avrebbe mai ordinato un'esecuzione. E sostenne di essere lei stessa nipote di Tuptim, divenuta una delle mogli minorenni del re Chulalongkorn. Come scuola delle donne, pensiamo che l'episodio della concubina giustiziata servisse ad Anna per raccontare lo stato di schiavitù sessuale in cui le donne venivano tenute. Per una donna indipendente e con coscienza di genere come lei, ciò risultava insopportabilmente offensivo. Negli Stati Uniti si unì ai circoli letterari di New York e Boston e tenne tournée di conferenze sul Siam, parlando spesso della condizione di schiavitù in cui vivevano le donne. Poi arrivò in Europa, dove divenne suffragista e docente di indologia in Germania. Volitiva e dotata di una tempra formidabile, riattraversò l'oceano e fondò in Canada il Nova Scotia College of Art and Design, un'università pubblica di arte. E infine, a 47 anni, tornò negli Stati Uniti a insegnare sanscrito all'Amherst College in Massachusetts, proprio dove nacque Emily Dickinson. Finalmente, Dopo anni di difficoltà economiche, l'ottimo matrimonio della figlia le concesse un po' di tranquillità, tuttavia non poteva stare con le mani in mano e dopo un anno riprese a insegnare alla Berklee School di Manhattan, una scuola di nuova concezione per la preparazione universitaria. L'anno successivo visitò la Russia e altri paesi europei per una rivista di viaggi e, tornata in Inghilterra, tenace e attiva suffragista, si dedicò nuovamente all'educazione femminile, entrando perfettamente in risonanza con Mary Wollstonecraft e con le sorelle Bronte. Poi a Montreal, dove insegnò sanscrito alla McGill University. A 78 anni tenne la sua ultima conferenza e a 83 questa donna indomabile lasciò la dimensione terrena. Gli anni di Anna Leon Owens alla corte del re Moncute ispirarono, decenni dopo, la scrittrice Margaret Landon, che a distanza di 80 anni li riportò nel romanzo Anna e il re del Siam, pubblicato nel 1944. Un successo internazionale, tradotto in più di 20 lingue. Grazie alle pagine di Margaret Landon, molti occidentali scoprirono tradizioni, cultura e società orientali. La genesi del romanzo pare essa stessa una magnifica avventura, come Margaret si imbatté negli scritti di Anna e come le vite delle due donne si intrecciarono. È davvero un'incredibile storia di sincronicità alchemica. Margaret Landon. Margaret Dorothea Mortenson nacque nel 1903 nel Wisconsin. Dopo la laurea a 22 anni, cominciò a insegnare inglese e latino, ma scoprì che l'insegnamento non era il suo cammino e lo abbandonò. Un anno dopo sposò Kenneth Perry Landon, un seminarista che aveva conosciuto al college, e poco dopo i coniugi si trasferirono in Siam, dove operarono per 10 anni come missionari. Margaret ricoprì anche la carica di preside della scuola cristiana femminile presso la missione di suo marito ed ebbe 4 figli, come colei che di lì a poco sarebbe diventata la sua eroina Anna Leon Owens. Nel 1930, infatti, mentre era a distanza in Siam, Margaret scoprì presso un amico di famiglia che possedeva copie di 2 libri di Anna Leon Owens la storia che ispirerà il romanzo Anna e il re del Siam. Entrambi i volumi, scritti da Anna Leon Owens, The English Governess at the Siamese Court del 1870 e The Romance of the Harem 1872, erano visti dal governo siamese come irrispettosi nei confronti del re e quindi banditi dal paese. Ma Margaret rimase affascinata dalla storia della donna che divenne istitutrice della famiglia reale siamese. E tornata in America, reperì copie dei 2 volumi visitando le librerie di seconda mano di Chicago. Iniziò a studiare la vita di Anna in dettaglio. Nel 1939, durante un pranzo, venne a sapere che la madre di uno dei commensali aveva avuto una corrispondenza personale con Anna Leon Owens, già anziana. Margaret riuscì a incontrare questa signora e fu messa in contatto con la nipote di Anna che viveva a Montreal ed era in possesso di documenti che includevano un resoconto preparato da Anna nel quale descriveva i suoi anni prima di Bangkok. Alcuni critici dubitavano della veridicità del resoconto autobiografico che Anna aveva lasciato, nondimeno Margaret, che non poteva esserne al corrente, si basò su questi per sviluppare la versione romanzata della permanenza di Anna Leon Owens alla corte del re del Siam, creando una delle figure femminili più ispiranti e amate di tutti i tempi, la cui integrità morale e fede potevano servire da esempio per le donne americane. Margaret, tendenzialmente molto scrupolosa nell'accurata verifica dei fatti, questa volta si lasciò andare e si fidò ciecamente del racconto di Anna che divenne per lei un esempio vivente. Il suo primo scritto pubblicato fu un articolo su una rivista intitolato Hollywood Invades Siam, Hollywood invade il Siam, ispirato alla scrittura di Anna Leon Owens. Iniziò a scrivere Anna e il re del Siam nel 1939, trasferendo nel romanzo molte esperienze e percezioni del Siam che appartenevano alla sua propria esperienza personale negli anni in cui visse come moglie di un seminarista. Le vite delle 2 donne dunque si sovrapposero e da 2 divennero 1, poiché come scuola delle donne pensiamo che Margaret abbia trasferito su Anna molte delle cose che avrebbe voluto vivere lei stessa, incluso forse l'amore proibito per il re, che di certo non figura negli scritti autobiografici di Anna Leon Owens. Poi Muriel Fuller, amica di Margaret dal college, che lavorava nel settore editoriale, la incoraggiò a riscrivere le storie di Anna Leon Owens, riducendo le lunghe descrizioni e perfezionando la sequenza temporale. E nel 1943, dopo aver riscritto alcuni capitoli fino a 20 volte, Margaret completò il romanzo, il quale fu rifiutato da due editori finché, come portato dal filo rosso che lega tutte le antenate, arrivò alla John Day Company, la casa editrice del marito della scrittrice e filantropa nostra vecchia conoscenza, Pearl Buck, autrice del romanzo bestseller La Buona Terra, di cui la nostra scuola offre la lettura integrale che lasciamo in link in descrizione. Tuttavia, la redattrice, assegnata al manoscritto, ritenne che il tono dell'opera fosse un po' troppo da scuola domenicale e insieme a Margaret riscrisse, tagliò e cucì fino a rendere il libro accattivante e adatto al pubblico di quel periodo. L'estro di Margaret finì per oscurare le sue intenzioni accademiche di semplice narrazione dei fatti e la storia di Anna, intrecciata con quella che la stessa Margaret aveva vissuto in Siam, prese la forma definitiva. Il libro diventò subito un bestseller, che si tramutò anche in musical e in diversi film, di cui l'ultimo del 1999 con Jodie Foster nei panni di Anna mette in luce in maniera decisa le idee femministe di Anna, anche grazie alla personalità dell'attrice che da sempre è attenta alle tematiche di genere. Margaret Landon lasciò il corpo nel 1993, a 90 anni, poco tempo dopo suo marito, nella casa di riposo dove entrambi risiedevano. Il manoscritto originale di Anna e il re del Siam e il materiale correlato sono conservati nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, mentre il resto delle carte dei Landon è conservato in ben 348 scatole nelle collezioni speciali del Wheaton College. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi di Margaret Landon, Anna e il Re del Siam, Spelling e Kupfer Editori, traduzione di Antonella Melegari. Da Devana, buon ascolto.